gocce di rugiada grandi come il mare, i pensieri della mente. Siamo vittime di odio senza fine, sento il fuoco sul mio corpo ancora acceso. Ogni giorno siamo bersagli del colore, nella profonda indifferenza. Non sono stanco di riflettere e pensare e di guardare un altro mondo. Sono tristi questi occhi sempre aperti, perché la violenza ferisce. Vivo di speranza, resto qui con la mia libertà. Questa libertà non ha padroni e non sono servo del potere, ma un bel giorno cambierà per la giustizia e libertà. Nessuno al mondo deve pagare o di essere condannato, no, non mai. E tu, fratello, dammi la tua mano. Le discriminazioni vanno combattute, le differenze di popoli e di razze sono i colori della vita. Ribelliamoci a chi ci vuole schiavi e dimostrare il nostro viso. La realtà ha una faccia senza trucco e la vostra rabbia ci fa sorridere. Noi siamo figli della rivoluzione per combattere il male che calpesta i diritti umani e distrugge anche il sole che sorride. Venite fuori, padroni delle guerre, venite fuori con le vostre maschere, ma un bel giorno cambierà per la giustizia e libertà. Nessuno al mondo deve pagare o di essere condannato, no, non mai.